Rock FM, sono le 8 spaccate. Benvenuti ai nuovi radioascoltatori e alle nuove radioascoltatrici che si sono appena svegliate. È la 13ª puntata, mercoledì 19 di settembre. E quest'oggi, ve lo garantisco, ne succederanno di cotte e di crude. Abbiamo già svegliato quelli delle 7 con Good Morning Starshine. Raccontavo a loro che questa mattina io mi sono svegliato con quella canzone in testa, non vedo perché non rimetterla, cioè, come dire, è poco professionale metterla due volte, ma che ce frega, ma che ce importa, da Air! Ci svegliamo come se fossimo a Broadway. Benvenuti, buona giornata anche a voi, fortunelli. Starshine, the earth says hello, you twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, by love and me as we sing, our early morning singing song. Pretty love, pretty, dimmy, dummy, dummy, la, la, la, la, la. Saba, simmy, saba, doobie, abba, nabba, dee, lo, lo. Siamo la redazione di Easy Rider, il programma che va in onda da mezzogiorno alle 2, per averci proposto, appunto, dalla colonna sonora di Air, Good Morning Starshine, o meglio, no, era stata proposta da un radioascoltatore, onor del vero, e noi abbiamo chiesto il vinile al buon Mox. Grazie mille, non ci metteremo sopra le ditate, te lo abbiamo promesso. 3351007777, questo è il nostro... Vado in fretta oggi, calmi, relax. È il nostro numero di SMS, perché è una puntata un po' così oggi. Allora, c'ho il fregolino, come si suol dire. Ariel, chiocciola, radiorockfm.com. All'inizio di questa seconda ora, l'ho accennato già nella prima, vorremmo tentare di sprovincializzare pane, burro e rock and roll, condotto da me, un varesotto così raccattato dalla strada. Dovremmo cercare di aprire il nostro occhio sul mondo. Ieri abbiamo fatto impallidire i nostri radioascoltatori sdoganando il lotto, il semplice gioco del lotto al mondo del rock. Molti hanno gridato alla bestemmia. Attenzione, perché quest'oggi vorremmo superarci. In questo mercoledì 19 di settembre vorremmo sdoganare al rock anche San Gennaro. È rock o non è rock il miracolo di San Gennaro? Secondo noi sì. Secondo voi? Cioè, se c'è di mezzo un po' di sangue è sempre rock. No? Lo scopriremo insieme. Restate qui. Said a word, not a mind. Bam a lamb, the damn thing gone blind. Bam a lamb, I said, oh, Black steady gets me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, and she's always ready. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb. Get it. Siamo lasciati con una domanda, forse strampalata, domanda però alla quale potremmo tentare di dare una risposta. Io ripropongo la domanda a Gianfranco. Gianfranco, secondo te San Gennaro è rock? Benvenuto sulle frequenze di Rock FM. Ah, esatto, io voglio salutare Gianfranco, voglio presentarti in questo modo. In tutti questi anni quasi ogni giorno c'è un sacco di gente che si lamenta, ma vi sentiamo male, vi prendiamo male. Gianfranco ci ascolta tutti i santissimi giorni da Napoli, dove la frequenza di Rock FM non esiste proprio. Ci piacerebbe molto, noi ci proveremo. Intanto fai sapere come ascolti tu Rock FM, che può servire anche agli altri, insomma spargete la voce dal satellite. Sì? Grande. Allora Gianfranco, però occupiamoci della domanda di quest'oggi. Il 19 di settembre è un giorno particolare per la tua città perché avviene il miracolo di San Gennaro. Senti, che aria si respira lì a Napoli? Sì. Senti, cosa succede in pratica? Cioè, c'è un'ampolla dove è contenuto... Certo. E il 19 di settembre succede una cosa. Viene lì, è una cosa stranissima. Molti ricercatori. Ah sì? Cioè, o il ma è sempre il 19 settembre o cambia la data, il giorno? È 700 anni che il 19 di settembre questo sangue cambia forma. Sì? Fantastico. Senti, nello specifico cosa succede? Perché ricordo che è un segno, nel senso che è benaugurante se accade una... ma se accade una cosa o se non... Cioè, che cosa accade? Più o meno mi dicevi verso le 9, no? Verso la fine... Cominciano la messa. E poi il miracolo quando dovrebbe avvenire? E nello specifico cosa accade? No, aspetta un attimo. No, non ricordo se il sangue passa da forma solida a forma liquida o... Cioè, come... Esatto, se si scioglie è benaugurante. Cazzo, ragazzi, speriamo. Ci fai sapere domani. Lo scopriremo poi magari anche dai telegiornali. In ogni caso ci fai sapere tu se va oppure no. Esatto. Gianfranco, buona giornata, è un orgoglio avere un ascoltatore come te che ogni giorno viva Rock FM e viva San Gennaro che è rock!

Grande magia il mezzo radiofonico che permette, grazie alle voci, di viaggiare nel tempo, nello spazio, tra le vite di personaggi incredibili. Incredibili davvero, come questa che le vorrei sottoporre. Chi mi vuole sottoporre di bello quest'oggi? Guardi la redazione cosa ci regala. Questa è Twiggy, la riconosco, sa? Sì, Grissino. Sì. Pensi che la modella britannica Twiggy si chiamava in realtà Leslie Hornby. Ma come mai me ne parla quest'oggi, caro freak? Ma perché? Perché è nata il 19 settembre. Quindi è il compleanno di Twiggy. È il compleanno di Twiggy, che divenne famosa all'età di soli 16 anni. Grazie. Sì. Grazie, quando si dice avere il manager in casa, casa e bottega, il fidanzato era anche il suo manager e si chiamava Justin de Villeneuve. Che con un nome così non poteva che fare il manager di successo. Esatto, esattamente. Okay. Io lo vedo ben vestito, un uomo sobrio, classico ma moderno. La mitica Twiggy che ricorderete come il volto della Swinging London, così veniva chiamata la Londra di quegli anni, degli anni 60. Sì, esatto. Meritò il soprannome di Twiggy, che tutti traducono con grissino, ma in realtà era legnetto. Sì. Lei apprezzerà questa mia proprietà di linguaggio. Grissino era più adatto, forse anche. Un po' più tonno, ma più adatto. Esatto. Lei tagliava infatti il tonno. No, era chiamata così per la sua figura magra da preadolescente, una quasi ragazzina. Quasi Efeba, ha detto Efeba, bene. Esatto, divenne fanosa. Divenne fanosa. È scritto male nel testo. Questa volta non è colpa mia. È colpa di Isacco. Isacco è scritto fanosa, invece divenne famosa a 17 anni quando Mary Quant decide di affidare a lei il lancio dell'immagine della minigonna. Grande invenzione di Mary Quant. Siamo nel pieno degli anni 60. Auguri a Twiggy da Pane, Burro e Rock and Roll. Auguri alla minigonna. Che Dio benedica Mary Quant. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Potrei fare il cantante dei Green Day? Sono carino quanto lui. Beh, sì. Time of your life, Green Day, nella diretta di quest'oggi di Pane, Burro e Rock and Roll, sempre con l'Ariele. Dedicherei qualche minuto, anche qualche secondo, perché abbiamo i tempi che stringono quest'oggi, ai vostri commenti, alle vostre reazioni. Mi dico, ragazzi, se c'è una cosa che mi piace è farvi arrabbiare. Proprio mi piace da morire. Allora, parto da me, da Mari, così si firma, che fa un po' la precisina. Ciao Ariele, ma che miracolo! Ormai è risaputo che è solo una reazione chimica di certe spore. A voi 100 punti in meno sulla patente. Dai Mari, ma insomma... è più bello, è il miracolo di San Gennaro, è rock. Le spore che si sciolgono sono poco rock. Intendiamoci. Altri saluti. Abbiamo questo amico che ieri confessa, ieri... mi sono lamentato con voi dicendo che il lotto non era rock, però poi i numeri li ho giocati lo stessi e li ho persi. Quindi sono anch'io poco rock. No, fratello, stai tranquillo, sei rock anche tu. Siamo tutti rock qua. Un saluto a Gian e a sua madre che si è rubata il vinile dei Kiss Live. Complimenti. Anche Padre Pio è rock, sentenzia Andrea. Invece Anton scrive: ciao Ariele e Freak, mia figlia Iris dice che San Gennaro non è rock per niente, e invece il lotto sì, di brutto. Oh ragazzi, vedete voi. Un po' di gruppi d'ascolto, l'ascensorista che sabato salda le ferie e parte per Santo Domingo. Complimenti. Ariele, dove sei venerdì in Toscana? Che situazione è? Da Firenze ci scrive. Allora, in Toscana questo venerdì inauguriamo io e il mitico Dome la Muerte. Tra l'altro sono veramente contentissimo di poter dividere la console con Dome. Faremo gran casino. Saremo al Charlotte, questo è il nome del locale, Colle Salvetti, in provincia di Livorno. Non saprei dirti altro. Discoteca Villa del Colle. Insomma, vienici a trovare e poi scopriamo insieme com'è. Insomma, io posso dirti che se ci siamo io e Dome la Muerte, la serata rock è garantita al Fulmicotone. Ultimo saluto a Monica, che compie gli anni, del gruppo d'ascolto Podologhe. Avanti e sotto. Un saluto anche a te. 8 e 26 minuti primi, in ritardissimo per l'appuntamento tra pochi minuti con il test attitudinale, particolarmente sentito in questi giorni, perché tra poco avremo la patente vera. Alabama Getaway, The Grateful Dead. Restate qui su Rock FM. Ciao. Cantoni, abbai, abbai, ruggisca, perché la domanda di quest'oggi del test attitudinale è una domanda punk, sì. La voglio con la cresta. Sì, sì, evviva il punk, oh. Punk's not dead, oh. Il punk non è morto né mai morirà. Andiamo nel lontano 1967, dove a Detroit nasceva una band fondamentale per il punk americano, da Stooges. Sì. Se li ricorda. Stooges, voglio essere il tuo cane. Ah, sì, sì, sì, I wanna be your dog. Vorremmo, in realtà, nel test attitudinale di quest'oggi, porre l'attenzione sul primo concerto che la band tenne alla storica Bill Ballroom. La leggenda narra che il cantante, ovviamente Iggy Pop, si presentò al pubblico in maniera decisamente poco ortodossa. Ricordate come? Bene, tre le ipotesi che vi proponiamo, ricordandovi senz'altro che comunque Iggy Pop era abbastanza solito a Miss fuori dal comune. Ipotesi 1. Iggy indossava per l'occasione una camicia da notte stile 800, che gli arrivava fino alle caviglie, e inoltre si era dipinto la faccia come un mimo, tipo clown. Aveva fatto una parrucca afro, piegando e torcendo dei fogli d'alluminio, sì. E si era rasato le sopracciglia per non farsi mancare proprio nulla. Niente, ecco, e affinché non si dica mi sono messo la prima cosa che mi è capitata, come di solito usano dire le ragazze. Soluzione numero 2. Iggy si presentò con un cesto di verdure marce, questo è un po' la Schiantos, che scaraventò sul pubblico presente, e il concerto fu dunque interrotto immediatamente causa mega rissa scatenata dal lancio dei suddetti vegetali. Fece forse questo con gli Stooges, ma... Ipotesi 3. Iggy si presentò al pubblico con un ingombrante vestito che riproduceva le fattezze di Paperino di disneyana memoria, Donald Duck, ma vestito da gerarca nazista. Beh, Paperino vestito da gerarca nazista, vorrei proprio vederlo, chissà se era questa la soluzione esatta. E comunque le risposte ve le diamo fra poco, la soluzione a dopo.